qualcuno a casa? Avanti Antonio. Ehi, ciao, vabbè. Dove sei? In macchina? Sono fermo in via Carlo Felice, Antu. Ma come? E che radio stai usando? Sempre la solita? La solita. Ma c'è un po' di eco, però la radio è 5, buona, qua segnale al massimo. Mettendo a posto un po' che ho fatto delle modifiche che ho fatto. Sulla radio, Antu? Sì, diciamo di sì. Ah, va, la radio è buona, 5, ottima modulazione, chiara, senza nessun disturbo, il segnale è qua, se sei vicino è fondo scala per me, solo che sono in macchina, quindi ho i LED, non ho lo smitter ad ago, capito? Però è fondo scala quando schiacci. Già stai uscendo? Bene, Anto. Ma più vitamine, così? Sì, un po'. Bianco che sta venendo una persona, prendo un pochino, ok? Va bene, non ti preoccupare, io sono fermo, sto aspettando mia moglie e mia figlia, e quindi sono qua fermo. Ci sentiamo dopo. Ok. Carlo, ci sei? Attento, Carlo. Hola, chicos. Fondo scala. Ma fondo scala? fai? Così è. Come? Così è Santiago 9. Ehi 9, ma la radio è più forte. Arrivavi 9,60, forse per quello che arrivavi più basso, di saturazione. Non lo so, adesso ti sei abbassato pure tu di modulazione. Ma di là ero più basso. Sì. Mi sentivo molto più forte. Adesso anche io ti sento molto più forte. Il segnale più basso, Santiago 9, però la radio è più forte. È buono, lo so. Perché siamo troppo vicini, Emi. Non lo so, Natale. E così deve essere. Hola, hola. C'è una cosa devo fare. Ci sentiamo dopo, ok? Ehi, ciao Antu, ciao. Sì, dimmi. Ieri mattina gli sto controllando una cosa qua, aspetta. Suo figlio, Diego, 25 anni. Oh, c'è un problema. Dimmi, Antu. Ciao già. Ehi Gianni. Ehi, un attimino solo che aspetto. Ehi, ok, ho già problema. Natali. Dimmi. Beh, saldato là quel pezzo. Ho guardato il pezzo. No, stavo controllando questo microfono, dai. Il micro. Ehi. Ciao ragazzi. Poi mi sta scendo più forte, tanto per qua il radio. Vero. Ma aumentato la radio. Pochino intanto, sai. E adesso va bene, va meglio di prima. Cosa? Il segnale. 9:10. Gianni, e io come sto uscendo? Sto uscendo bene. Aspetta, che facciamo una prova, un attimo. Quindi ti sei fuggito, va a pagarlo, ti sei fuggito. Gianni, guarda adesso come va. Tra poco sentire. C'è il numero 25. No, la radio mi interessa com'è questa qui e com'era quella di poco fa. Ma se lo potete andare bene, rifai il passaggio, tu me lo dovevi dire che devi fare il controllo. Del passaggio, così almeno me lo ricordo bene. Allora, questo è il passaggio numero 1. Okay. E questo è il passaggio numero 2. Numero 1 è più presente, ma sono bene tutti e due. Quindi il numero 2 è meglio, là. No, ho detto il numero 1. La numero 1 è più presente, è più forte. Ma la numero 2 è lo stesso bello, ho detto, non è più. Perché c'è un tasto che c'è scritto FM ed SSB. Adesso è in SSB. Cioè, ma il microfono, fammi capire, per usarlo sia in SSB che in FM, così. Adesso è nella modalità FM. Però si può mettere nella modalità SSB. Adesso è FM. Ah, ho capito, eh. Mi dà meno potenza forse, appena appena di me. Così è più basso, vero? Aspetta. Adesso l'ha aumentato, guarda un po', questo è il volume però. Adesso sente bene. Come Antu? Ho detto la grande, sta uscendo la grande, già va bene. Che microfono è? La V508. Ah, ho capito, ma la mi metto, sì. A me avevi un po' più forte, già, cosa hai combinato? Sì. Cosa hai combinato? Io? Sì, io. Perché? Arrivi molto, molto più forte, mi avevi detto. No, uguale, sempre uguale. Se l'hai tu magari che l'antenna l'hai messa a posto un vespo. Sempre lì, che non accadde più. Ma lo sai, stamattina in SSB mi ha risposto un russo. Ehi. Buonasera Claudio. Gran bella radio Gianni. Gran bella radio. Grazie, grazie. E sempre quello il microfono, sempre lì. Non aggiungiamo altro. Però mi facevano abbassare il volume perché c'era troppo forte. Ah, invece te lo dico io, è gran bella radio. Natali ce l'ho anche io col microfono, la vai 508, V508, io in VU lo uso in modalità SSB, lascialo così che va bene anche in AM. Fabio, ma quello che avevo io, quello che avevo tutti i cursori, che mi facevi regolare, che microfono era? Non mi ricordo che era quello. Quello che ci abbiamo io e Natalino è senza equalizzatore, tu ci avevi quello con l'equalizzatore, la V908, capito? Quello più grande. Ah, ecco, ho capito. E comunque vanno bene, già va bene. No, aspetta, Claudio. Ciao, non ti ho salutato. Perdonami, ero un po' con la testa alle nuvole, comunque vi saluto tutti. Sì, sta crescendo tutti magnificamente bene. Anche tu, Natali. Ottima modulazione, lasciamo in modalità SSB, che va bene sia in FM che in AM. Già lo so, adesso è in SSB. Anche io lo uso così, io ce l'ho sull'820H, in VNU, la V508 e lo tengo così, va benissimo. Va bene, dai, che sono entrato adesso a fare la spesa, cazzo, è un cazzo allucinante pure. Mamma mia! Guarda, ma con sempre con la G-Pone mi sta ricevendo, oppure con la frantella? No, adesso sono con la Mantova perché sono col 140, comunque arrivi 9 più 20 radio 5, ma non tanto il segnale che non mi interessa, ma la radio è super 5, veramente, lo sai che io amo dire la verità, soprattutto sulle radio, super 5, bella, corposa, fortissima, chiara, presente, con tutti i suoi acuti, molto molto bella, evidentemente altre volte o c'era la batteria scarica o non lo so, però adesso è spettacolare, come ho sempre detto che tu col Galaxy non ce n'è per nessuno, e questo è il Galaxy. Galaxy, poi nell'altro ho messo un microfono normale, quello che c'avevo praticamente nell'altro con ambito modificato, quando l'ho venduto gli ho dato l'altro microfono, e ci ho messo quello lì, ma lo sai che cantando avevo, quel baracchino, quel Cobra, con quel microfono, uia, una bomba. Cavolo, comunque per vorrei di sì è Claudio in questa stazione qua, minchia. Certo, c'è 9 più 30 qua, sembra che stia arrivando a quanto Roberto Quadrato, ma io sono in alto e tu sei nella stessa mia zona, leggermente più in basso, 9 più 30, tanto stai arrivando, allucinante. A Quadrato, a me, dalla macchina mi arrivava 9 e 30. È molto più vicino. Lo so già, è una bellissima zona quella, anche se bassa però è molto aperta, molto 9 più 3, tanto non ci arrivi neanche se attacchi l'amplificatore a casa tua così, e lì sei con quanti watt? 4? No, sa 10 watt così, dai, una cosa del genere. Cazzo, 10 watt e 9 più 30, cos'è l'idea? Va bene, comunque complimenti a tutte e tre, state uscendo magnificamente bene anche tu, al tuo bella radio corposa, bella forte, presente, Natale lo stesso, Gianni non c'è ancora nessuno, Gianni c'è la modulazione fatta giù, ma chi è? Poi ascoltando bene, dico Gianni, non è possibile, è tornato alla normalità, molto bene Gianni, dai, mi lascio che mi spoglio perché faccio un cazzo da Aragona da fare il pesce, sono morendo di gatto, c'ho dentro casa senza attaccare niente, 19, quanto è? 21 gradi ci sono, cazzo, la mazza mi riva. Infatti, c'è caldo, ci deve essere quel vento del deserto. Sicuramente va a fare di chissà più ci amarro. E vabbè, dai. Andà bene. E adesso lascio così, non li tocco più mai nessuno. Non abbassa, alza, abbassa, fai. Ogni volta che lo tocco, da cui succede il casino. Chiara, chiara. Va bene, ripeti la tua. E lascialo così che va bene, cosa stai lì a toccare, a fare? Senti, io lo metto basso così, perché sennò esco troppo forte e si sente, come dire, il televisore, anche se basso lui è troppo sensibile e prende il televisore più forte della radio mia. Ma con che baracchino stai usando però? E con un baracchinetto piccolo. Sbagliato. Come? Presto, gamba gara. E perché ridi? No, così. Ma Se vedi questo apparecchio ti metti a ridere. E quello piccolo che devi mettere in macchina? Ehi, quello della macchina, e allora? Ma comunque c'è bene. Ciao, questo piccolo e l'altro è il 3009. Se vuoi te lo faccio sentire il 3009. Ma lo 64? No, con l'MB più 4 . Oppure te lo faccio sentire col microfono normale. Io va bene questo, lascia questo qua, già va bene. Questo qui l'hai acquistato da internet, il microfono. No, me l'ha regalato un amico. Ah, ho capito. No, perché c'erano, io prima ce l'avevo con l'equalizzatore, poi l'ho venduto a una persona perché non mi piaceva, non riuscivo a regolarlo, c'aveva l'equalizzatore con tutti i cursori, un magazzino di lui. Perché per te va bene questo, tu c'avevi il 908, invece quello più semplice è il 508, quello che c'ho io, è come la Dunis. La statica, ma provato, è la statica, è quello da tavolo però. Cosa c'entra la statica? Io sto parlando di questo qui, questo è un Avair AV508. La statica non ne ho io la statica, io ho il Turner più 3 e ce l'ho in una scatola e l'MB più 4 che è attaccato al 3009. No, io ti ho fatto la domanda specifica, oltre a quello che mi hai detto, ti ho chiesto, l'hai mai provato la statica? Perché l'ho visto su internet tipo l'MB più 5 così. No, quello non l'ho mai provato. Perché per sapere come va. Vabbè, a me mi piacciono più quelli da Palmo, non mi piace di chi da Palmo. Cioè non è che non mi piace, da Palmo mi viene meglio. Lo so, questo c'ha il filo lungo senza essere spiralato. Allora Monica, devo dire questa. Capito, lo puoi attaccare con due apparecchi diversi. Tutto quello che ci vuole un altro capo e fare l'attacco per un altro apparato, là, diciamo così. Il mio è spiralato e sarà 2 metri lungo. Non ho trovato altro di filo da. E poi c'ho una prolunga per il coso, per il come si chiama, per il 3009 senza essere spiralato adesso, perché il capo dell'MB più 4 originale è troppo corto, se no dove l'ho messo non ci arriva, e allora io ho fatto questa prolunga così. Ho capito, ciao, va bene la famiglia, va bene. A me non è che mi piacciono tanto le prolunghe, però preferisco mettere il filo in cavo più lungo, ma diretto. Le prolunghe non mi piacciono tanto, ma quando a mani estremi è sempre limitato. Se è fatta bene la prolunga, questa è fatta bene, perché tu devi vedere com'è fatta la prolunga. Quando tu vedi la prolunga che ho fatto io, tu dici verue. Va bene, verue. Sei a radio tu. Deve essere che alzato il microfono, perché però ci va un po' più basso. Infatti, guarda, questo qui ti piace. Sì, già va bene. E questo è il coso, il 3009. Con le più 4, così. Sì, signore. Ma le modifica? No, negativo. Rapporto a lei. Questo è normale. Claudio. Già va bene. Sono stanco morto, la tariffa. Non ho riposato, ma come portato, sono andata alla dottoressa direttamente, mi doveva fare un certificato. E manco io sono riuscito a riposare, diciamo così, infatti sono venuto qua proprio per quello. Non mi sono, praticamente non mi sono riposato, e allora ho acceso gli apparati così. E anche se non riposato allora, poi non ce la faccio più. Come sta facendo questo 3009? Ce ne esce bene, ce ne esce. Ciao, la va. vedi, questa è la prolungata, è un bel lunga questa prolunga, perché sennò, siccome è in alto il 3009, se non facevo questa prolunga qua non ci arrivava alle più qua. Mi prolunga di microfono. Ah, sì. Ah, da tanta voglia. A voglia. Questo sta facendo un bel forte il macchino che c'è, ma sicuro non è battuto. Non l'avevo battuta io, no. Forte la radio. Sì. Sì, forse è l'antenna. Ecco, là. Perché l'ha sistemata, me l'ha parata, l'ha sistemata, così è. No, non gli ho fatto niente, forse perché ho ammassato un po' di watt. Per quello che c'è più bene. Li hai ammassati? Li ho messo a modellare da 5, dai. Che raga, va bene. Oh, e tu la stai in macchina, ci così? No, oggi no. E stamattina c'è te, c'è? Già c'era Franco. Giovanni da Platamona, ho sentito. Adesso ci sono la gente che è a casa, mi rovesci, ce la accende, dai. Poi d'estate, Vabbè, accendiamo noi, usciamo in macchina e la gente c'è. Vabbè, sempre che diminuisca questo cavolo in benzina, sennò non si può andare avanti. Il gasolio mi sa che costa più della benzina. Assoluta benzina. Luca Soio, adesso che già volevo un poco di nana. E adesso già abbassa tutto di nuovo, che tolgono le accise e l'IVA. Beh, quello lo dovevano fare per la Sardegna, essendo una cittadina regione autonoma, dovevano farlo, però non l'hanno mai fatto. No, che lo devono fare, che è troppo alto, ci sono gli autotrasportatori che si sono fermati e non arrivi in merce, se no, non hai compreso, che hanno alzato troppo i prezzi e quelli non possono lavorare, poverini. Non andava così. Come fa a lavorare se chi lavora se lo muovi in gasolio? Io nel camion, già lo sai, se tu con la patente del camion, lo sai quanto costa un pieno di gasolio. Cioè ci parte anche da 1.000 euro, cioè in certi camion, cavolo, ci vuole un bombe di gasolio. Cioè come fai tu? Cioè se costa il doppio per farti un pieno. Infatti ci sono trattori che hanno due serbatoi, uno a destra e uno a sinistra. C'è di Navimoni a pienarlo, questo serbatoio. Ci sono un sacco di soldi ci vogliono. Ci sono trattori che ne hanno due di serbatoi addirittura, uno a destra e uno a sinistra, perché consumano molto. Ma è così, lo sai che è un camion, è così. Stradale consuma un bel di gasolio. Già appena una macchina vi punicate 200 euro, se ti vedi. Ma tu a questa impresa te l'avevi la parte. Deve essere che si è spostato. Chi ce l'hai? Altro li chiami tu, l'altra presa te la vedi quella patente. No, piano. E che altro vuoi pigiarti? Adesso è cara a prendersela la patente, non ti credi che sia come ti quando me la giuviglia da io? 20 euro e va via la patente in bucciaccara. Ah va, se andas con la guida ti spennano bene, chissà quanto costa adesso. Te lo dico io, costa 700 euro, l'ho fatta prendere a mio figlio. Nuda è. Cazzo, 700 euro a pigliare la patente, io avevo speso 20.000 lire allora. Cazzo. E quando ne ero parente dalla prefettura, ma poi sulla macchina di traverso Abu, a chi ne ripigliavo una macchina che ero sempre senza patente, i guidenti. Vabbè, ma ti io. No, io vabbè, ma comunque sai, io qualcosa in più la puoi pagare, ma non così, mi sembra una cifra esagerata adesso. L'ho fatta prendere, la sta prendendo Marco, l'ho pagata io per prendersi. E cosa vuoi? Purtroppo adesso la scuola guida costa un sacco di soldi. E se vai a prendere la patente come quella che ho io, che ci volevano 6.000 euro a prenderla, più da poi devi fare un GQC e devi pagare pure un baghissu, ne ha da candicati. Cazzo, l'ultima volta avevo speso 350 euro solo per il CQC. Ma dite che vi può ancora non si vi può però, eh. Mi sono, ho sentito gente che ci vuole intorno a quella cifra. E se non di più adesso, io ti sto parlando, quando l'ho presa io ci volevano 6.000 euro a prenderla, una patente del genere, e poi non ti la puoi pigliare come ti mi la giubiliare da io, forse vivo di più, perché adesso le devi prendere a una, tutte insieme non te le puoi pigliare. Un salasso è a pigliare una patente del genere. E poi non conviene, se non la sfrutti non conviene, a parte che dura di meno, che dura 5 anni, ogni 5 anni scade e la devi rinnovare, capito? Beh, il rinnovo non è che sia più di tanto, il retraining che fanno molti, vabbè, quello per le merci, ma papigliarla è solo papigliarla, mi fanno un montone di dinapone, ma soldi però. E a me lo dici, io vabbè, su cosa, io l'ho presa a un colpo, l'ho presa, perché io ho preso direttamente la D, ho preso, però adesso non si può più prendere, adesso prima devi prenderti la C e dopo la D, dopo che hai la Bimi, tutte una a una le devi prendere. Tutte a un colpo come l'ho presa io, quando l'ho presa io non si può più prendere per legge. Sono di Napoli che ci va a stare. Cioè, ma che ti pare a pigliare una patente del genere, cazzo? Vabbè che una parete, una patente c'è per lavorare. Ma ne è boccio un po' ci cucci, ma la sorciglia. E io ne ho due di CQC per esempio. Io ho persone e merci, perché posso portare il camion con le merci oppure il pullman con le persone. E per le persone ci vuole il CQC anche per quello, capito là? Se no è come che c'è la B se non hai il CQC. Non valgono quelle patenti. Cazzo ci vuole. Ma tu le stai rinnovando, Antonio? No, io me ne la faccio prendere quest'anno, quando mi scade me ne la faccio prendere. La fai tu che ti prendi la B normale. Infatti, cosa me ne faccio? Se non sto lavorando, cosa me ne faccio? A rinnovare il CQC vivono tutti gli sci di là, non ti la giudico. Quando lavoravo, che la usavo, allora conveniva, ma se no... Eccolo sì, è molto dispendioso, ecco, per fare. Non conviene rinnovarle. No, me ne le faccio prendere. Non me ne frega nulla, datemi quella della macchina, gli dico e boh. Tanto mi guida la macchina e basta. Cosa me ne posso di una patente professionale? Oh, per la patente superiore non te ne fai nulla se non lavori. Perché è dispendiosa, mi. Ogni volta che la rinnovi devi fare anche il CQC e devi pagare anche lì. Quindi devi pagare per il rinnovo e per il CQC. Io ne ho due poi di CQC, ho persone e cose. Natali, se no sei più travagliente di come ne tira scalartela e basta, quella te ne fai. Tanto non è che... Cioè, magari non puoi più travagliare e cose, se tu veni fatta scadere, ma la togli e boh, e ti lasci la B. Infatti mi faccio dare la B, cosa me ne faccio di una patente professionale? Io... quando uno non lavora non gli conviene più averla, gli conviene, poi io ho già una certa età, intanto se me la tengo, me la danno per 2 anni adesso questa volta, io ho già 64 anni, quando faccio 65 me la scalano, e quindi 2 anni te la danno invece di dartela 5, invece la B dura 10 anni, me la daranno per 5 a me. Dura di meno, una volta che superi l'età dura di meno la patente, valida. Dopo il 50° anno di età ogni 5 anni. E quindi non mi cambia niente a me, praticamente me la lasciano per 5 anni la B, invece che per 10. Sì, ma è per il tasso e basta, non per altro. Ci lasciano così la pratica. Anch'io l'ho fatta, lo rinnovo per un po' qui. E fanno così, una volta che superi l'età è quella la canzone, io lo sapevo già e te ne la scalano, poi quando superi normalmente 20 anni si la dagano in 2 anni, da voi ogni anno. No, io so che è al massimo di 5 anni, non lo sapevo questo che te la scalano 2 anni, 1 anno, ma dipende, quando vai 90 anni. Non lo so quando scade, adesso non me lo ricordo con precisione, però già è così per vedere se sei idoneo, perché una volta che diventi più grande i riflessi non sono più quelli e un sacco di cose ci sono, hanno ragione, se addirittura prendi i farmaci e ti fanno anche il coso del sonno, non c'è da scherzare, la patente è un'arma. Io quando ho studiato era così, diceva solo che 10 anni sino al 50° anno di età, dopo il 50° anno di età ogni 5 anni, però non parlava di altro, di 1 anno, di 2 anni, non le diceva, almeno che abbiamo cambiato adesso le cose. No, sempre così è stato. Dopo che superi 65 mi sembra, te la scalano e per 2 anni te la danno, mi sembra solo. Dopo 2 anni guardano se sei idoneo e te la danno per altri 2 anni, così mi pare che sia. A 70 anni mi pare che da voi ogni anno la devi rinnovare. A 70 anni 3 anni, a 80 anni 2 anni. Figurati. E così è, là. Ciao Giulio. Ciao, sto facendo cosa? Ciao Giulietto. Ma io della patente superiore non me ne faccio nulla e mi faccio dare quella della macchina. Basta. Tanto chissà devo buttare, mezzi pesanti non ne devo portare. Qualche anno fa va. Basta così. E infatti. Oh, si ha giù di buttare un pullman, un bus, meno. Non c'è problema. Il pullman è più leggero. Ma bisogna saperlo portare, il pullman è tosto, che c'è le ruote dietro il sedere. Ma detto perché c'è persone a bordo. E oltre quello, il pullman non è tanto facile da portare, è più facile il camion. Facciamo anche quello che guida la vettura, ti lamenti che ci sta prendendo tu posso fare. E se no che tu sei 65, Gesù Cristo mio, va via, un riambiente attizzando, Gesù era senza premi, era. Da poi va via la scatola guida, crepata e, dove... e non andava mai dritto, ui, Gesù Cristo mio, cazzo. Ok, che c'era una massa cruciale. A Giumai tu rendi la gaglia una voce e mi ammazzo. Se ci fosse una gemellata pura dalla sede stradale, gatta, attaccata a andare a destra e a sinistra, rugamio, se fosse stato un altro si era ammazzato. Un amico mio gli è successa la stessa cosa e ha distrutto un camion di quelli grandi. Ehi, a me cazzo mi è andata bene veramente. Oltretutto ero stanco perché ne stavo tornando da Cagliari. Già me ne ricordo che me lo dici, perché mamma mia, si può guidare come sul cane. Ui, c'aveva la scatola a guida che lo stesso faceva mezzo giro prima di ieri. E che tanto mi è andata a fare la prova di guida, te lo ricordi che era senza freni? E allora, era senza freni, toccava pompare per frenare. Che come fa a circolare questi mesi qua? e l'altro cazzo che ci piove va dentro, non solo di piovere dove guidavo io, anche nel vano merci pioveva. Infatti una volta sono arrivi da tempio, viva più, c'avevo dalla vernice, c'avevo e aveva piovuto e quindi la roba era bagnata, anche se era di ferro la roba. Mi ha detto cosa il padrone, no, quello che la dovevo consegnare questa vernice. Cazzo, ha giù telefonato a Ghidu, a Rubadrone, per aggiudito, a Rubrizipari. Oh Cristian, mica quello si è lamentato che la vernice, i bidoni della vernice erano tutti bagnati perché ci piove dentro in quel furgone, ho detto. Cazzo, no, non si può. Ma narrami una cosa, Natali. Pagato da Gussu. Sì che mi ha pagato. E allora narra di pagare si godai. A chi era campidanese. E allora, di Gosu era, di Zelagius. E allora, Natali, ma quello lì pagato ti ha? Sì, Cristian, già mi ha pagato, già, mi ha firmato la bolla e me ne sto andando. E allora nada di pagare si godai. Natali, ma ti spingere da un negro che guadagni 50, che guadagni 5 centimetri. E allora, cazzo, fazia così ridì quando si incazzava, mi abbracciava in campidanese, cazzo, i piedi alla iatta, mamma mia. Cazzo, una volta va più, gli sportelli di Daredu erano tutti acciaccunati, tutti i cazzo, che era sempre pieno a ponti, Lugano. Cazzo lì, me lo stai tutto rovinando questo camion. Ma se la roba non ci sta li devo chiudere a forza, per forza, è logico che sono torti, a giudizio. Ah beh, no ma nulla, ero cammino era piena a ponti. Adesso ci sono delle luci molto più severe, non puoi caricare come ti vuoi tu, se no ti piglia la patente. Ci sono sempre stati, ti portano al peso, ti pesano, se c'è il caricatrice ti vuole molto esorbitare. No, ma fatti prima, mi so camion che te lo segna se sei fuori, se sei fuori peso, addirittura c'è un camion che non va, non neanche, adesso tutti i giorni. Se sei fuori peso, se ne accorgi subito e comincia a suonare, no, non andare un camion. Poi se ne accorgono subito, molti se ne accorgono subito anche dallo scontrino, sono cazzi due da voi. Perché poi ti controllano tutto quello che hai fatto nella giornata, hai capito? Anche se l'hai fatto prima sei buttito. Prima la strada diceva mi seguo, ti portavano un peso, una fabbrica o qualcosa che c'era dove c'erano i pesi, ti facevano pesare il camion e guardavano la strada. Se ti dicevano no, lì ha caricato di più. Non sono macchino. E guai si sta scappando in un gozzo, lo marchi ingegno. La tariffa era uno che moriva arrecciato, moriva. Con l'automotore, con la gassiera del gas andando in questo motore. Avevo sorpassato un gassetto, era a più di 100 era. Ma com'è possibile? E lui? Vera Luciano mi chiese che c'è di Ramocca d'Oro, oh già, chi va via la calamita va via, ma da chi metro? E che sono fatti, non lo posso andare? Non lo posso andare da chi metro, e segnava la velocità, i Puriaello, Pulsinuso. E poi non è solo quello, c'era Cristian per esempio che ogni giorno scendeva da Selaggio alle 3 del mattino e veniva a Sassari, saliva e quindi praticamente ogni giorno era minimo 50 quintali di sovraccarico. Veniva da lì, veniva a carico e portava a Sassari. E allora caricava nel magazzino che avevano loro e portava a Sassari, quindi la roba ci capitava tre volte in mano. Cazzo, lui era ogni giorno 50 quintali minimo di sovraccarico ci aveva nel cane. E come ti andava su? Ehi, va via un Volvo, già camminava a Bobbuia, l'ha giù buttato blu, andando a Cagliari. Vabbè, l'ora è 40, facevamo mettere anche se pedane, senza pedane. Non si vedeva, manco il fuoco, manco lo spirito ci passava. E a me lo dici, navigava lo Volvo pieno, cazzo, anzi no, non era Volvo, no, uno Scania era, cazzo è poco, era potente chi su Gamio, cazzo, a vederla è sempre i gargaponti, ne parava, cazzo, l'anchivi, e attava a Sassari, cazzava, ehi, 50 quintali minimo, quando noi eravamo in gente di sovraccarico. Era sempre pieno a ponte il camion. Ehi, ehi, ma tu, e me? E tu, come popolo, il sovraccarico le fai? Allora, ma se può fare un sovraccarico? Oh. Ma io mi ricordo prima, quando guidavo io, che ti portavano alla Sarda Latinizi, che ti facevano pesare il carro quando era troppo carico. Una volta mi hanno trovato e volevano, praticamente volevano una cassa di vino, questi della finanza. Ha detto che non era roba mia, che non ne potevo dare, se dovevano fare la busta di farmela, che io non potevo dargli nulla che non era mio. Magari mi hanno buttato blu, a vedere si fura. No, si può qua. Qua sono cavoli amari, qua. Se ti trovo un sovraccarico ti impegna la patente. Cioè, ma poi non si può fare. Già per molto meno, se non vale il ventore ti impigiano tutto in occhio. Bisogna stare molto attenti, bisogna stare. Come vale impegnare tutti la patente? Sulla Budimudi all'inizio, dopo il chilometro lì, a 72 km orari c'era il limite di 50, ma hanno preso 3 punti più 178 di multa. Sì, lo so già, ma bisogna stare attenti anche per la revisione del sensore, deve essere sempre revisionato. Se ti limiti in ghetto e ti apri una faccia ti ne piglia la patente. Cioè, infatti noi lì lo curiamo molto questo aspetto qua, perché non vogliamo fare problemi, capito? Cioè, è tutto a posto, tutto regolare, è venuto l'altro giorno, gli ha revisionati, ci ha dato certificato, tutto a posto. Anche se no è occhi, sono cavoli amare. E voi è anche perché portate merci pericolose, infiammabili. Più di un certo numero di bombole non potete caricare, ci sono tante regole, noi così, voi non ne potete fare no, perché se vi trovano sono cavoli acidi. Poi la cosa c'è di buona contravvenzione alta e poi cioè voi lascia perdere, non c'è da scherzare, se sovraccarico ancora peggio, allora c'è anche c'è questo. E secondo cosa fai? Secondo che infrazione è l'Oscar Azzurri. E quelli che portano le merci così sono più controllati degli altri. E Vinelli vieni. A noi ti dice, ti quanti cazzo, lui mio camminava di più, un bel di più. E allora dovevo frenare, come vedevo che arrivavo quasi a 80 subito, dovevo frenare, sennò si superavo e mi rapunivo da solo la muccia. Chiudi la strada, non potevi andare. Eh no, se c'è il tachigrafo te la metti da solo, adesso è peggio. Adesso c'è quello digitale che ti metti la multa da 6 mesi prima, da solo. Ma che prima dovevi conservare gli iscritti e te li controllavo. Ciao. Per forza, quando c'erano i dischetti di carta, quelli del mese dovevi avere, no? Però va un ghissù digitale, leggi lo scontrino. Loro c'hanno il tesserino, no? Come quello che c'ho io. Cazzo, ce l'entrano dentro e ti stampa lo scontrino. E se c'è qualcosa che non va da 6 mesi prima, loro lo vengono a sapere, capito? Aspetta, stata lì. Oi. Ho aspirato il telefono alla mano di Pusso, l'ho arrivato a pisare lui. Sarà la pubblicità, e pure a me ogni tanto mi squilla, cazzo. La para lui, l'altro giorno gli ho detto, ma scusi, io capisco che voi lavorate, ma telefonare, allora che uno riposa quando mangia, è sbagliato, ma noi troviamo la gente a quell'ora, se no poi dice la troviamo che va a lavorare. Lo fanno apposta. Ma si possono, adesso dice che si possono segnalare. E nella lista nera mettili. Così non ti squilla neanche il telefono se telefonano quei numeri. Ma quello di casa come fa? Ah, in quello di casa, cavolo. Quello di casa ha chiamato. E alla fine mi dilungavo sul telefono, tanto con solo internet uso. Mi metto quella che ci vuole, che si fa da poco, link, come si chiama? Link, boh, come si chiama? Linken. Linken, quello lì. Dice che va bene. Ah boh, non lo so, io c'ho la fibra e c'ho il telefono di casa pure della TIM. Pago un botto di soldi, va a fanguarla. Mi danno un nuovo cavallo, io ne avevo cavato, tanto avevamo il cellulare tutti e due. Vedi che è fissata con questo telefono di casa. Anche io c'ho la fibra, però è Vodafone, la mia. È di Vodafone. E pago 60 e passa io. E io pure pago così. Ma un tratto un po' 40 lì. Qualche volta quando siccome c'ho quel telefono di campo che cade la mina, sempre quando cade la mina mi chiamano a casa, capito? Ecco. Ma ci deve essere qualcosa dentro casa, perché dalla macchina prende bene, non capisco io cosa ci sia. Ma c'è qualche cosa che disturba. E beh, socio. Poi fai. Come va ragazzi? Siete solo voi due? Sì, c'è la chiatta dove è uscito a fare un servizio. E tu come va? Come va? Tutto ok? Tutto ok? Ciao Natalino, sì, sto rientrando al lavoro, una doccia. Tu ci accenna un po', dai. Io ho sentito voi due. Natalino, hai fatto qualcosa o sei sempre fermo? Ho fatto, però sono sempre al punto di partenza, c'ho tutto, le staffe, tutto quanto mi ho comprato, c'ho tutto per piazzarla, ma ancora non abbiamo piazzato manco le staffe. Siccome mi sono il segnale è forte, pensavo che ti già cambiato antenna, vabbè, con calma. Mica può cambiare il segnale, sempre quello, Emi. So gazzero di vatti, dai, no. No, è forte, tranquillo che già è forte. Siete a due basi, Natalino, vai fu. Come? Che siete a due basi. Infatti. Allora quando piazzo l'antenna 3 metri più in alto di come adesso, dovrei spaccare cosa gli uccelletti. Ecco, sei oltre il 9.30, è quasi il 40. Ehi, a chi tu sei di Riccardo? Andava bene. E voi tutto a posto ragazzi? Tutto a posto, niente in ordine. No, ma io mi ha fatto 5 minuti di fila. La settimana scorsa ero uno zombie. Sabato e domenica. Mi ha chiesto anche di lavorare domenica, ho detto no, lasciami perdere che voglio riposare, voglio recuperare un po' di sonno perché non riuscivo a dormire di giorno, porca miseria. 5 notti di fila sotto esatto. Dalle 9 di sera. Attivo qua la casa alle 9, rientravo la mattina alle 5 e mezza, dipende, qualche volta abbiamo finito un po' prima, però se no l'orario è quello. È un casino, lavorare di notte è brutto, perché poi non recuperi più. Oh, io non riesco a recuperare, il giorno alle 7 ero già sveglio, 2 ore di sonno, e poi tutto il giorno ero uno zombie, come stavo dicendo, vagavo così da una parte all'altra. E soltanto che siamo in 3 solo che abbiamo quel tipo di abilitazione, quindi facciamo una settimana a testa. Certo, sono stati furbi, non l'ho preso. Davvero, a volte è incombente questa cosa. Poi almeno te l'avessero riconosciuta, cioè a livello retributivo invece, lui pretendo un ebook. E che ce l'avevo questa abilitazione, ce ne sono ricordati, purtroppo. Canta, canta, avanti Natali. Canta canta che ti passa. Ah, io mi sono riuscito a mettere a posto quella base magnetica, mi ho messo l'antenna in macchina. Canta una bomba, fra. Io ho provato, mi sembra, tra l'antenna dietro, messa diciamo sopra la ruota di scorta, e con la base magnetica, usciva più forte la base magnetica perché era centro capotta, capito? E che qui non la posso mettere perché la capotta non è liscia, poi c'è anche il vetro del tettuccio, è un casino, è ondulata. Ho capito. invece bene, ho preso una di quelle frese, rosa, di quelle piccoline, l'ho attaccata al trapano e sono riuscito a togliere la vernice da a tempo graduccia, eppure sono riuscito a lucidarla sotto e adesso fa bene contatto e funziona benissimo adesso quella base magnetica. L'ho messa in macchina domenica e sono sceso anche a Pratamona lì, su Guvaraddu, e già funziona bene. Arrivi bene a stasera, che io da Pratamona non arrivo tanto bene. No, io arrivo bene. Vuol dire che arrivo bene. Con che antenna? La PLC 800 ho io, ma io con quell'antenna sono uscito sempre bene. Prima già ce l'avevo attaccata alla capota, ma ne l'avevo tolta l'antenna e vabbè, con la base magnetica funziona bene lo stesso, arrivo bene lo stesso a Sassari. Ho parlato con Gianfranco e mi ascoltava bene. Io lo sai cosa faccio? Apro il metro di dietro, faccio passare il filo da dietro di modo che non mi disturbi, non lo metto manco davanti il filo, lo metto da dietro, faccio passare da un sedile all'altro e non mi disturba. Sì, anch'io faccio così, lo passo dietro. Una volta mi c'era attaccata, mi sono dimenticato, era un po' veloce. Meno male non mi ha spaccato il vetro. È rimasta a penzoloni al cavo e un po' mi aveva ammaccata leggermente su quella piega che c'è sotto il vetro, ma appena. Sì, a te cosa ti è successo? Ma è tutto lì, non mi ha fatto altri danni. Mi sono dimenticato, ero lì nel rettilineo di Olmedo. Ho dato l'accelerata, ho detto boom, mamma mia, ho detto chissà che danno ho fatto, invece mi è andata bene. E anch'io stavo tornando al ghiero, l'altro giorno mi si è staccata, ho distrutto la base magnetica, meno male l'antenna si è rotta, ho dovuto cambiare la base magnetica, aveva spaccato tutta la calamita, tutto da. No, la mia è rimasta appesa al cavo, non c'è stato niente. Il problema era la macchina, la mia. Allora all'epoca c'avevo la 1 turbo diesel bianca. E appena aveva ammaccato, ripeto, quella pieghettina che c'è a fianco, cioè sotto il vetro, sotto la base del vetro, ma appena. No, la calamita no, poi era grande, è di quelle grandi, io dico sarà almeno, non dico 20, ma quasi di diametro a me. La mia era 60. 60 cosa? 6 centimetri. 60 centimetri. No, questo è grande, questo è 20, quasi 20 centimetri di diametro. Sembra, comunque è un bel grande, dai. Diciamo, se fai la O con le mani, più o meno la dimensione è quella. E anche la mia è così, di quelle larghe, bassa e larga. La mia è quella grande, non lo so, da 60, mi pare 60 centimetri. Beh no, 60 è impossibile, ti piglia tutta la capotta. Non so cosa voglia dire questa 60. Come dice scritto 60? Forse è millimetri. Centimetri. Come quella che c'è così deve essere. Ma vedete cosa vuol dire? Quella sigla lì. E la devo misurare per saperlo. Sì, comunque io più o meno, occhio, quando fai la O con le dita, tipo quando ti fai, quando dici ti faccio cura, una cosa del genere, fai così, la misura è quella. 16 centimetri è come quella che ho io, è bassa e larga come base magnetica. Sì, sarà alta, la calamita un 3 centimetri. Poi c'è una specie di bombatura verso la parte alta dove deve nascondere, diciamo, la parte dell'attacco dell'antenna, dai. E come quella che c'ho io, e là? Ce l'ho 40 anni, io. Io l'altro giorno avevo misurato le stazionarie, erano 1,2, l'ho fatto 1,1 in tutti i canali. L'ho abbassata tutta e adesso c'ho 1,1 in tutti i canali, anche nei canali alti. Ti vuol dire che ti accorda bene, risuona bene. Vabbè, io ho sempre l'accordatore in macchina, quindi a volte se vedo che salgono appena, ma non fessi via, mai risalgo, io gliele riporto subito a 1,1. No, ma io quando ho cambiato ho messo la base nuova, avevo fatto tutta la saldatura del piede, nuova, tutto tanto. L'ho ripiazzata. Se mi faceva partire il fusibile, non capivo perché. Mi andava alla stazionale fuori lo scala, proprio era in conto. ci ha fatto il fusibile a settembre, già gli ho messo da roba, non è partito, però mi ha segnato questa sera con uno scatto. Che ha detto, questo qua c'è qualche conto. L'ho smontata e dove c'è la piega del filo, perché il filo non ci sta bene all'interno sotto la base, non ci sta bene bene, devi fare una piega. E praticamente quello lì rovinava tutto, toccava e toccava la calamita e, c'era un filo che era un po' sbucciato. L'ho preso, l'ho rimesso bene, quello lì tutto quanto isolato bene e poi l'ho rifatto in piedi. Io se capita qualche giorno glielo cambio, gli metto il cavo H155, quello è a bassa perdita. Male non gli fa, devo solo recuperare l'attacco che c'è lì sotto la base magnetica, quello lo devo tenere quello. E poi gli metto il PL. È che non so se la misura cambia, cambiando il cavo, perché c'ha, come si dice, una perdita diversa. Basta che ne metti 5 metri 50 e non sbagli. Che antenna c'hai? Io le antenne ci metto quelle, ma da Sirio, che sono da 1,60 m credo che siano. Cioè poi ci posso mettere quella che mi ha dato cosa, Eugenio, quella è 1,80. E metti 5,50 di cavo e si adama. E noi bagli. Vedremo, dai, avanti già. E solo che un po' più ingombrante magari l'H1000, cosa vuol dire l'H1000? No, è uguale, l'H155 è uguale, non cambia quasi nulla, forse mezzo millimetro, non vorrei sbagliare, ma a occhio sembra uguale. Ho capito, ce l'ho anche io, quello che c'ho io, quello grigio che c'ho. Sì, anche io quello grigio, è leggermente più rigido come cavo, non è morbido. Sì, ma meno male, come l'R58. C'è un po' più di rame, per quello che rimane un po' più... Ma è stato piega, non lo deve fare. Lo deve fare, ma purtroppo sotto l'antenna, se non c'è il posto per mettere il cavo, come fai senza fare la piega? Per forza, per girarlo, devi fare la piega. E dove? Sotto, dove attacchi il bullone per attaccare all'attacco dell'antenna, lì. Praticamente quando tu metti l'antenna tocca la calamita, capito? E non so come spiegarlo, praticamente tu togli la parte per non graffiarti la macchina, quella pellicola che c'è in plastica,